per la che sei rilabra e di denota. Tutta questa vita ti voglia per mia. Guardando lo ti toglie diretto muta. Non taccio mute di qualche voglia. Voglia per Come on.